senza passiamo un matto in prova cittadini due da troppa e stavo un minuto tentati non vale che farò B, non vale che farò B a marcia due sette un pari seminare un tutto flow mi lasci un po' a chi c'è poi ti piagno non vale che farò B, non vale che farò B a marcia.